Sto lasciando tutto. Sto lasciando tutto. E mi trovo qui perché tu Dio mi attiri. Io cerco te. Ho bisogno di te. Io mi arrendo. scoprire.